La storia qui nelle sei contee adesso sta attraversando una fase che la possiamo definire interlocutoria, ossia si susseguono trattative, incontri e negoziati comprendenti un po' tutte le parti in gioco. Si va da un annoiato Tony Blair ad un interessato Bertie Ahern, premier della Repubblica d'Irlanda che tra parentesi è stato di recente in visita ufficiale in Italia, da un Paul Murphy, segretario di Stato per il Nord Irlanda, ultimamente alquanto buonista, fino ai soliti noti, ossia gli soliti esponenti dei maggiori partiti politici nordirlandesi. I temi all'ordine del giorno li possiamo riassumere decisamente in due punti: la formazione dell'assemblea e dell'esecutivo e la rinegoziazione del Good Friday Agreement, ossia del trattato del Venerdì Santo stipulato nell'aprile del 1998. E su entrambi questi temi si promettono battaglie al Democratic Unionist Party, partito del reverendo Ian Paisley, ultraconservatore protestante, ed il Sinn Féin di Gerry Adams, partito repubblicano cattolico e definito da sempre braccio politico dell'IRA. Questi partiti si sono imposti nelle ultime elezioni rispettivamente come primo e come secondo partito nelle sei contee del Nord. Inoltre, nonostante questo, come ho già detto, sia un periodo di trattative, non dobbiamo dimenticarci di ciò che avviene ogni giorno per le strade e soprattutto non scordiamoci dei gruppi paramilitari che queste strade le comandano. L'Ulster Defence Association, gruppo protestante, continua ad arricchirsi col traffico di stupefacenti e con le estorsioni, mentre l'IRA continua anche lei con le attività di contrabbando, soprattutto a ridosso del confine tra la Repubblica e tra l'Irlanda del Nord, ed è stata tra parentesi di recente accusata di non aver rispettato il cessate il fuoco a causa del tentato rapimento ai danni di un noto dissidente repubblicano di West Belfast, motivo un vecchio regolamento di conti. Come si può ben capire, i problemi sono da 30 anni sempre gli stessi, mentre gli interrogativi da porsi sempre tanti, ma purtroppo le risposte restano sempre oscure, velate, coperte da parecchie nubi, proprio come il sole che oggi riscalda l'Irlanda del Nord. Da Belfast, Gustavo Pregoni, reporter associati per Amisnet Radio.